Topic of today's Dhamma talk is wisdom part one. L'argomento del Dhamma talk di questa sera è la saggezza, prima parte. Now, in the course of this retreat, we have so far dealt with an introduction to the Satipatthana meditation. And we then went on to discuss 14 qualities from the Metta Sutta, as you might remember. Then this talk was followed by a talk on Vipassana phenomenology, and then we went into Satipatthana. Allora, nel corso di questo ritiro abbiamo parlato di vari argomenti, abbiamo iniziato con un'introduzione al Satipatthana, Vipassana, poi abbiamo parlato delle 14 qualità, così come sono presentate nel Metta Sutta, poi abbiamo parlato della fenomenologia in relazione alla meditazione di Vipassana, poi siamo entrati proprio nel merito del Satipatthana. So what we shall do is for most of the remainder of the retreat is intertwine aspects connected to the Satipatthana Sutta with aspects connected to wisdom. Quindi quello che faremo per il restante tempo di questo ritiro è quello di in qualche modo collegare gli elementi della Satipatthana Vipassana, cioè della meditazione Satipatthana, con elementi della saggezza. And in questo modo collegarli nel senso di intrecciarli. Ecco. And in this way you'll gain a good understanding of what Satipatthana is all about, and you will also gain a good understanding, or you'll be able to through the Dhamma talks on wisdom compare that to your own meditation experiences, and get a sense of what is happening in your practice. Quindi facendo ciò potrete capire meglio di cosa si tratta quando si parla di Satipatthana, e attraverso i discorsi sulla saggezza potete anche trovare un riscontro tra la saggezza, appunto, e la vostra pratica individuale. At the time of the Buddha, there was a well-known teacher of the Tipitaka known as Venerable Putila, and he had plenty of students who studied the scriptures with him. Al tempo del Buddha c'era un insegnante del Tipitaka che si chiamava Putila e aveva molti studenti che lo seguivano. Now, it so happened that every time the Buddha came across these famous teachers of scriptures, he would address him as Tuccho Putila, which means useless Putila. Now, just think of this. What a nice way of addressing him. Allora, tutte le volte che il Buddha incontrava questo famoso, importante insegnante, si rivolgeva a lui chiamandolo Tuccho Putila. Tuccio Putila, che significa useless. Inutile Putila. Now, this happened not just once that the Buddha would address him like this, but several times. Now, sooner or later, the Venerable Putila started thinking about what was going on. Questo non era successo una volta sola, ma ripetutamente. Allora il Venerabile Putila a un certo punto cominciò a chiedersi cosa stesse succedendo. And so with other disciples the Buddha wouldn't do this, and him he would call or address as useless Putila. Questo non succedeva con gli altri discepoli, eppure con lui, a lui il Buddha si rivolgeva con questo appellativo di inutile putila. Eventually, the venerable putila got the point. Poi, a un certo punto, dopo un po' di tempo, Putila comprese il motivo. Namely, he was well learned in the scriptures, but when it came to meditation practice, he was a zero. Allora, ed il motivo era questo, che lui era molto ben istruito per quanto riguarda le scritture, ma quando si trattava invece della pratica, equivaleva a uno zero. And so, being addressed as useless, Putila must have hurt his feelings, and this was, well, strong enough to, well, cause him to change his life. Quindi questo chiamarlo inutile Putila aveva evidentemente ferito nei suoi sentimenti, aveva offeso, ma questo fu abbastanza forte, fu sufficientemente forte perché lui cambiasse i suoi modi, cambiasse la sua vita. And one evening after having finished teaching one class of scriptural class to his students, without informing a single person, he took his alms bowl, he took maybe another set of ropes, and he simply left the monastery he was in. E una sera, dopo aver insegnato una lezione ai suoi studenti, lui si prese la sua ciotola, prese forse un ricambio come abiti e semplicemente lasciò il monastero. And he walked into a forest, until into deep forest, until finally he reached a forest monastery that was well known for its highly realized monks. E camminò, si addentrò nella foresta finché non trovò un monastero della foresta che era conosciuto come un monastero in cui c'erano dei monaci altamente realizzati. When he reached that forest monastery, he approached the abbot of that monastery and certainly paid respects, and then requested the abbot for a topic for his meditation practice. However, the abbot knew very well about this Putila and knew that he was a famous teacher of the scriptures, and he told him, well, who am I to teach you something? You know already everything about the scriptures. Allora, arrivato in questo monastero, si rivolse all'abate, fece i suoi rispetti, poi gli chiede un argomento come un argomento per la sua pratica. Ma l'abate conosceva bene questo venerabile Putila, sapeva che era abile nell'insegnamento delle scritture, e gli disse: ma chi sono io per poter dare a te delle istruzioni sulla pratica o degli insegnamenti? And instead of giving Venerable Putila a topic for his meditation practice, this abbot referred him to the next second senior most monk in the monastery. Allora, anziché dare al venerabile Putila un argomento per la sua pratica, piuttosto lo mandò da un monaco anziano del monastero. And so Venerable Putila approached this second monk in line and also requested him for a meditation topic, and so the second monk also realized who he was and refused to give him such a topic and referred him to the next person in line, and so on and so forth, until he ended up with a 7-year-old Samanera novice. anche questo secondo monaco, diciamo, nella gerarchia, riconoscendo Putila come un esperto in scritture, anche lui non se la sentì di dargli degli insegnamenti, di indicare l'argomento per la sua pratica, e quindi lo dirottò ad un terzo monaco. Questo terzo monaco allo stesso modo lo dirottò ad un altro, e così via, fino a quando venerabile Putila non si ritrovò con un bambino di 7 anni, un monaco di 7 anni, Samanera, quindi un novizio. Yes. And so, Elder Putila, owing to his vast scriptural knowledge, obviously was pretty proud. But by the time he ended up with a 7-year-old novice, already a great deal of his pride had vanished. Allora, ovviamente Venerabile Putila aveva un grande orgoglio, ma con l'andare del tempo, quando si ritrovò ad avere a che fare con un novizio di 7 anni, molto di questo orgoglio era svanito. Okay. Now, this 7-year-old novice was not just an ordinary novice, but he was an arahant novice. So at young age he had already attained the Dhamma and had certain a very direct understanding of it. In realtà questo novizio di 7 anni era già un arahant e conosceva molto bene il Dhamma, pur nella sua giovane età. And so even the Samanera was still somewhat careful with the elder Putila, and so before accepting him as a student he would put him to a test. Ma anche questo Samanera era un po' attento rispetto al venerabile Putila, quindi prima di accettarlo come suo studente gli fece una piccola prova. So he asked him, are you willing to follow all of my instructions? Ma prima gli chiede, sei disposto a seguire tutte le mie istruzioni? And to this elder Putila said, yes, yes, yes, whatever you tell me I'll do. Sì, qualsiasi cosa tu mi dica io lo farò. So then the Samanera said, okay, please see that pond over there, walk straight into the pond. And this is what the venerable Putila did. Allora gli ha detto, vedi quello stagno laggiù? Vai dritto e finiscici dentro. E così fece il venerabile Putila. Yeah. And so as the venerable Putila was wading into or towards the center of the pond, it was getting deeper and deeper, and it was already pretty much in water. And when the Samanera realized this man is really following his instructions, and so he called him back out of the pond. Allora, quando vide che Venerabile Putila si addentrava, insomma, in questo, camminava dentro questo stagno, questo laghetto, diciamo, e stava andando sempre più in profondità, l'acqua raggiungeva la gamba sempre più su, allora novizio, Samanera, si rese conto che avrebbe effettivamente seguito le sue istruzioni e l'ha richiamato indietro. Okay. And so, then only did the Samanera give Venerable Putila an instruction, and the instruction was very short, namely, guard over or close the 5 doors and guard over over the 6th door. And as an illustration he gave him the example of an anthill that has many many openings, and a lizard who wants to catch the ants coming outside or going in, well, needs to close the main main gateways and then guard over one door or entrance. Allora, questa Samanera diede una sola istruzione, molto semplice e molto diretta, che è quella di chiudere le 5 porte, i 5 ingressi, e controllare, quindi stare in guardia, rispetto ad un unico ingresso. E diede l'esempio di un formicaio. Dice, se una lucertola vuole catturare le formiche che entrano o che escono, cosa fa? Chiude tutti i buchi del formicaio e sta ad aspettare, controlla l'unico ingresso lasciato aperto. Now, as Venerable Putila was well versed in the scriptures, he quickly understood the deeper meaning of this instruction. he then used it, and so in a very short period of time did he realize the Dhamma. Ma siccome Venerabile Buddhila conosceva molto bene le scritture, allora capì subito cosa c'era sotto questo insegnamento e applicandolo raggiunse molto presto la comprensione del Dhamma. Later on, the Buddha spoke to Venerable Buddhila in verse as follows. And so I'll give you the English translation of Dhammapada verse 282. Quindi nel verso 282 del Dhammapada viene riferito ciò che il Buddha ha poi detto al venerabile Putila. Indeed, wisdom is born of meditation. Without meditation, wisdom is lost. Dice, in realtà, cioè, è proprio vero che la saggezza nasce dalla meditazione. Senza la meditazione, la saggezza è persa. Knowing this twofold certain path of gain and loss of wisdom, one should conduct oneself so that wisdom may increase. Quindi conoscendo questo duplice sentiero, cioè questa duplice modalità, cioè di guadagno e di perdita, uno dovrebbe comportarsi in modo tale da sviluppare la saggezza. Now, what this story centering around the Venerable Buddha shows us that there are different levels of different levels of knowledge or understanding. Allora, quello che ci dimostra questa storia del venerabile Putila è che ci sono diversi livelli di comprensione e di conoscenza. So, the elder Putila, before he underwent intensive meditation practice, only had a theoretical knowledge of the Buddha's teachings, but not a type of knowledge that arose out of meditation practice. Allora, venerabile Putila, l'anziano Putila, prima di intraprendere una pratica intensiva di meditazione, aveva solo una conoscenza molto teorica degli insegnamenti del Buddha, ovvero sia una conoscenza non basata sulla meditazione stessa. Now, the Buddha distinguishes three kinds of knowledge, namely Cintamaya Panya, which is knowledge based on thinking, and then, as number two, Sutamaya Panya, knowledge based on hearing, and as the third one, Bhavanamaya Panya, knowledge based on mental development. Ok, vediamo se ci allora, si distinguono tre tipi di three types of wisdom or knowledge, tre tipi di conoscenza. Allora, la prima è Cintamaya Panya, yes, ed è la conoscenza based on thinking. Questa è basata sul pensare, sul pensiero. Secondo, Sutamaya Panya, yes, questo è basato sull'ascolto. Hearing, yes. Il terzo invece Bhavanamaya Panya, e questa è la conoscenza basata sulla pratica. Yes, correct. Yes. And so with knowledge based on thinking, or there is this knowledge based on thinking. And so with one's thinking powers, one can gain much or do much. If you think of people like Albert Einstein and his theory of relativity, or if you think of some other great scientists, their achievements are partly owing to this great ability to think out a problem. Allora, c'è questa conoscenza che deriva dal pensare, che è una forza molto, molto potente. E, pensate solamente a Albert Einstein e la sua teoria della relatività o ad altri scienziati e vi rendete conto di come questa forza del pensiero sia utile per risolvere dei problemi importanti. However, this kind of knowledge based on thinking, does it lead you to nirvana or not? Tuttavia, questa conoscenza basata sul pensiero vi condurrà al nirvana oppure no? Obviously not. Ovviamente no. And then the same thing goes for the second type of knowledge, which is based on learning. Literally speaking, it means knowledge based on hearing. So in the old days, there was much knowledge passed on by one expressing it and the other listening it and then memorizing it. Allora, il secondo tipo di conoscenza è basata sull'apprendimento, letteralmente sarebbe basata sull'ascolto, perché nei tempi passati l'apprendimento avveniva attraverso l'ascolto degli insegnamenti, c'era una trasmissione orale. And in a wider sense we can say that included in this knowledge based on hearing is gaining knowledge through reading books or maybe listening to some tapes and so on. Ma possiamo un po' allargare il significato e comprendere in questo tipo di conoscenza anche quella che si può acquisire attraverso la lettura di libri o l'ascolto di CD o cassette e via di seguito. Now, as in the case of Venerable Potina, he had much scriptural learning, but no realization. So when it comes to the attainment of Nibbana, this is not, it is helpful to some extent, but it is not enough. Allora, così come nel caso del venerabile Putila, che conosceva molto bene le scritture, anche questo tipo di conoscenza può essere utile, però non è sufficiente per avere la realizzazione. Now, a different kind of knowledge is the third one, which is based on mental development. The Pali for this is Bhavana. And so one can develop the mind through either practicing samatha bhavana, mental development through tranquility practice or calm practice, and secondly developing the mind through vipassana. Allora, il terzo tipo di conoscenza è la conoscenza attraverso lo sviluppo della mente, e questo sviluppo della mente può avvenire con due pratiche. La prima è la pratica di calmo, di tranquillità, cioè samatha bhavana. La seconda è la pratica attraverso lo sviluppo della mente, attraverso la pratica della vipassana, no, dell'insight, della visione profonda. E questa è la seconda. Now, what we're most interested in is this third type of knowledge, which is based on mental development, and it is through this bhavanamaya panya that nibbana can truly be attained. Allora, a noi interessa questo terzo tipo di conoscenza, questo bhavanamaya panya, perché è solo attraverso questo tipo di conoscenza che il nibbana può essere raggiunto. Now, when it comes to the gaining or acquisition of wisdom itself, we find in the texts a few sources that give some hints, and one of them is the so-called Alavaka Sutta from the Samyutta Nikaya, from the 10th Samyutta Nikaya. It's the 12th Sutta. Allora, per quanto riguarda invece il discorso della saggezza, ci sono alcune indicazioni date nelle scritture e nei sutta, in particolare uno del Avalaka Sutta, yes, che si trova nel Samyutta Nikaya ed è esattamente il decimo, the tenth, yes, it's tenth. Il decimo Samyutta, Samyutta Nikaya, and the twelfth discourse. Ed è all'interno di questo decimo, è il dodicesimo discorso. Yes. And in that particular discourse, Alawaka asks the Buddha the question, how does one gain wisdom? Allora, in questo discorso Avalaka chiede al Buddha come si ottiene la saggezza. And so, of course, Alawaka asked the Buddha many other questions, but those are not relevant for the time being. Allora, Alawaka ha chiesto altre domande al Buddha, ma per quanto ci riguarda non le tratteremo, sono irrilevanti. And to the first question, the Buddha answers as follows, namely, placing faith in the Dhamma of the Arahants. Quindi il Buddha risponde in questo modo, ponendo fede al Dhamma degli Arahant, for the attainment of Nibbana, per il raggiungimento, l'ottenimento del Nibbana, from desire to learn one gains wisdom, attraverso il desiderio della conoscenza uno ottiene la saggezza. If one is diligent and astute, but astute is in the sense of possessing discerning awareness. Se uno è diligente e astuto, ma astuto nel senso di avere la capacità di discernere. Discerning awareness. Discerning awareness. Ah, quindi una consapevolezza discernente, non si dice una consapevolezza che sa discernere. So astute is definitely not in the sense of being shrewd. Mm. Sì, quindi astuto non nel senso di furbizia, insomma, no? Now, the Pali for the reply verse is Saddhāno arahatam dhammam nibbāna patiya sususam labhate paññam appamatto vicakkhano. Now, we'll go into some of this to some extent. Now, placing faith in the Dhamma of the Arahants for the attainment of Nibbana. So if one wants to attain Nibbana, the first thing one needs to possess is faith. To have faith in the Dhamma of the Arahants. Per quanto riguarda la prima parte della risposta, allora è necessario avere fiducia nel Dhamma degli Arahant per raggiungere il Nibbana. Okay. And so, from the previous discourses and also other knowledge gained then beforehand, you might have gained enough understanding that this Dhamma indeed leads to the ultimate goal, in particular the practice of the four establishments of mindfulness. Quindi dai discorsi fatti precedentemente o dalla vostra conoscenza personale avrete probabilmente sufficiente, so you have enough faith in the Dhamma, you mean? Avete sufficiente fiducia nel Dhamma per poter andare nella direzione della meta finale, in particolare fiducia nella pratica della Satipatthana. So one knows that the practice of Satipatthana indeed leads to the attainment of Nibbana. Quindi in altre parole voi sapete che la pratica della Satipatthana effettivamente conduce alla realizzazione di Nibbana. And even if one hasn't realized this oneself, but at least certain hints are there, certain indications are there. E anche se uno non lo ha realizzato, diciamo, personalmente, però ci sono alcune indicazioni, alcuni segnali presenti. And so, but just faith itself will not be enough. Will not be enough to lead a practitioner all the way to the attainment of Nibbana. Ma la fede da sola non è sufficiente. non sarà sufficiente per arrivare all'ottenimento del Nirvana. Now, once faith is born, one will think of ways and means of gaining further instructions, and thus one will approach a teacher. Quindi man mano che cresce questa fede, una persona cercherà delle istruzioni e quindi si avvicinerà ad un insegnante. And so when one approaches a teacher, then one will lend an ear and hear the Dhamma. E quando uno troverà un insegnante, allora presterà l'orecchio per sentire il Dhamma. And so in this way one gains a desire to learn, which in the Pali scripture language is given as sususam. Sususam è il desiderio di apprendere, che viene come conseguenza di questa ricerca di un insegnante o l'aver trovato l'insegnante. Okay. Now, hearing the instructions, one will then put them into practice and eventually gain the Dhamma. Quindi, avendo appreso le istruzioni, uno le metterà in pratica per poi successivamente ottenere il Dhamma. However, the Buddha points out a further condition, namely one's practice should be diligent practice, appamatto in the Pali scriptural language. Però il Buddha mette un'altra condizione, cioè la pratica deve essere una pratica diligente, quindi appamatto in Pali. And then furthermore one needs to possess this quality of discerning awareness. E in più uno deve possedere questa qualità di consapevolezza, di una consapevolezza che sa discernere. And this in the Pali scriptural language is known as vicikana. Vicikana è la parola in Pali che esprime questa abilità. Now, the Venerable Sarupanita explains appamatto as being related to appamada, and appamada means diligence, it means heedfulness, it means non negligence. Allora Venerabile Upandita si riferisce a questa parola a appamatto come collegata a appamada. Appamada, yes, correct. Appamada, che significa, che equivale al essere, can you just repeat the three adjectives? No, to be diligent. Quindi diligente, oppure non pigro, yes. E non, the third was non, so heedful. Oh no, the heedful. Diligent. I forgot myself. Essere no. non pigro. Never mind. Non forgetful would be another one. Quindi non una persona che non si dimentica. And non careless. È una persona che non è, che non trascura, diciamo, non è indifferente. And not failing in one's duty. È una persona che non fallisce, diciamo, nei suoi doveri. Now, as for the last term of vicikana, this gets explained as possessing a power of discernment. Quindi vicikana invece è questo possedere un potere di discernimento. An ability to kind of look into the future and consider possible consequences and then only come to a decision. Quindi questa capacità di vedere nel futuro e di prevedere le conseguenze e solo successivamente prendere una decisione. And this power of discernment or power of reflection in the Pali scriptural language is known as patisankana bala. Bala is power. Ecco, bala è potere o forza, capacità, questa era la parola Pali, e significa proprio questo potere di discernimento. Yes, power, power of discernment or power of reflection. O anche un potere di riflessione. And so, the example given, you know, by, you know, the Buddha for this power of reflection is as follows. Namely, a person through simple discernment realizes that performing unwholesome deeds by body, speech and mind will lead to negative consequences. Therefore, the person will then voluntarily refrain from performing unwholesome deeds by body, speech and mind. Allora, il Buddha spiega questa capacità di discernimento dicendo che una persona vedendo le conseguenze di un'azione non salutare col corpo, con la parola e con la mente, allora eviterà di fare questa azione per evitarne le conseguenze negative. It doesn't go any further than this. Ma non va oltre questo. Whereas there is another power known as vipassana, sorry, as bhavana bala, and this is the power of mental development. E allora un altro potere, un'altra capacità è questo bhavana bala, e questo è lo sviluppo della mente. And so, with an aim of gaining, well, total destruction of the taints of gaining detachment, realizing the Dhamma, one practices in order to, one practices and then gains the seven enlightenment factors. Quindi con questo scopo in mente, questa meta di distruggere gli inquinanti mentali e purificare la mente, ottenere il Dhamma, allora una persona pratica diligentemente e raggiunge o sviluppa i sette fattori dell'illuminazione. Now, this power of reflection, Patisankhana Nabala, kind of serves as well, as a tool to check whether one's way of practice is really appropriate or not. Quindi questo potere di riflessione o di discernimento ha la funzione di controllare se la propria pratica è efficace oppure no. So let's say if one is maybe suffering from what shall we take? From some illness, some, let's say, gastrointestinal illness or so, and it's somewhat serious, and one knows one needs to maintain certain limits, and even though the instruction may be please practice for 12 to 14 hours a day, such a meditator will know, yes, this is the instruction, but in my case it's different, and so I need to adjust and I'll practice maybe a little bit less. Facciamo l'esempio di una persona che abbia dei problemi gastrointestinali, per esempio. Allora, le istruzioni sono quelle di praticare per 12 o 14 ore al giorno, però questo meditante sa che nel suo caso specifico questo può danneggiarlo, allora lui sa di adattare le istruzioni alla sua situazione. Now, we've seen faith will lead to the approaching of a teacher. One will lend an ear, one will hear the instructions, one will practice, and when one practices, one does so with diligence, and on top of this one assures that discerning power is there. Allora, per ricapitolare, la fede porta a cercare un insegnante, e questo fa sì che uno presta l'orecchio e segue gli insegnamenti. Gli insegnamenti faranno in modo che sia sviluppato questo potere di discernimento. and all of this then will lead to the arising of intuitive wisdom. E tutto questo porterà al sorgere della saggezza intuitiva. Now, another way of describing the frequent way or the development of a disciple is as follows. Questo è un altro modo per spiegare lo sviluppo della pratica di un discepolo, è il seguente. At first, again, we have faith, and this then leads to the arising of right thought, such as thoughts of renunciation. This in turn leads to the taking and observance of precepts. Allora, si comincia sempre con la fede, questo porta a dei retti pensieri, che possono essere per esempio i pensieri riguardo alla rinuncia, il desiderio di rinuncia, e come conseguenza ci sarà la presa dei precetti, quindi il rispetto dei precetti. Now, included in the training in virtue is the training in sense restraint, indriya samvara sila. Quindi all'interno dell'addestramento sulla virtù c'è il controllo dei sensi. Ed è questa parola che ha detto. Indriya samvara sila. Indriya samvara sila. And the Buddha goes, and the Buddha says this needs to be complemented by the practice of mindfulness sati and clear comprehension sampajanya. E questo deve essere integrato con la consapevolezza, sati, e la chiara comprensione, sampajanya. Right. And with the help of mindfulness and clear comprehension, and the presence of some concentration, a meditator will be facing and then overcoming the five hindrances. Allora, con la presenza della consapevolezza, della chiara comprensione, di un po' di concentrazione, allora il meditante affronterà e supererà i cinque ostacoli. And once this has been achieved, then the insights or series of insight knowledges can arise. Dopo che questo è stato raggiunto, allora possono cominciare a sorgere la serie degli insights. So, what we can say is there's a definite existence of a path of purification. Allora, quello che possiamo dire è che c'è sicuramente un ben definito percorso di purificazione. And this path of purification has been described in certain texts, such as path of purification, the Visuddhimagga, which is a standard work for meditation, and it has also been described in the Abhidhamma Dasangaha, the manual of the Abhidhamma. Allora, questo sentiero di purificazione è stato ben descritto, per esempio nel Visuddhimagga, che è il sentiero della purificazione, e nel manuale dell'Abhidhamma, che è Abhidhamma Dasangaha. And then meditators of the past and of the present are experiencing this path, are walking in along this path. I meditanti del passato e del presente hanno avuto esperienza di questo sentiero, stanno camminando in questo sentiero, hanno camminato e stanno camminando su questo sentiero. And as there are students who are practicing, there are also teachers who are guiding, and the teachers keep hearing reports from from the students or from the meditators, and the essence of these reports can be collected, and then the gist can be drawn from this. E ci sono, così come ci sono studenti che stanno praticando, ci sono insegnanti che stanno insegnando, che stanno ascoltando le relazioni, diciamo, durante i colloqui di questi studenti, e queste relazioni, non mi viene una parola migliore, possono essere in qualche modo raggruppati e si può capire attraverso questo riferire dell'esperienza un po' la tendenza del meditare. So, from a theoretical point of view as well as from a practical point of view, you know, such a path is obviously there, and modern natural sciences have put tested all of this, and the results are very encouraging, and the results actually verify the existence of such a path. Quindi tutto questo va a provare, a confermare che esiste questo sentiero, e le moderne neuroscienze, attraverso dei loro test, dei loro esperimenti, stanno verificando l'esistenza effettiva di questa via, e questo ovviamente è molto incoraggiante. No, research on meditators started at least in the 1960s, and has increased over the years, and very significant for Vipassana meditation is research that was carried out by Dr. Daniel Brown and Dr. Jack Engner in the States. Allora, degli esperimenti sui meditanti sono cominciati già negli anni 60, ce ne sono stati progressivamente sempre di più. Quelli particolarmente significativi per la Vipassana sono quelli effettuati dal dottor Daniel Brown e Engler, Dr. Jack Engler. Jack Engler, negli Stati Uniti. And more recently, we have Professor Dr. Richard Davidson from Wisconsin University at Madison, and he's done lots of brain scans of meditators, and he's finding that he and others are speaking of the so-called plasticity of the brain, which means the brain can be shaped, it can be formed. Allora, ci sono altri esperimenti molto importanti che sono stati fatti dal dottor Davidson dell'Università del Wisconsin negli Stati Uniti, e hanno fatto molte brain scans, sono queste radiografie del cervello, scansioni del cervello, ma si chiamano in un altro modo. Non mi viene in mente. E attraverso questi esperimenti hanno verificato che la mente possiede una sua plasticità, e quindi che la mente, come il cervello, diciamo, può modificarsi. But we're not going to go into this any further. Ma non ci addentreremo in questo campo. No, instead, the Pali term jnana is defined as, or it gets translated as, insight knowledge, and its certain definition is as insight knowledge associated with profitable consciousness, with wholesome consciousness. Allora, il termine Pali jnana viene tradotto con insight, che in italiano si può dire intuizione profonda. E questi insight sono in qualche modo collegati with wholesome consciousness, con una coscienza di tipo salutare, sì. Positiva, che è profitable, cioè che produce cose positive. And so, as we've seen already, there are various kinds of knowledge around. Knowledge could be of a worldly type, but it could also be of an intuitive type. And so what we mean here is intuitive knowledge. Abbiamo visto che ci possono essere vari tipi di conoscenza, ci può essere quella più ordinaria, più mondana, oppure quella più intuitiva. Quella che a noi interessa in particolar modo qui è questa conoscenza di tipo intuitivo. And this intuitive knowledge arises out of mental development. E questa conoscenza intuitiva nasce attraverso lo sviluppo della mente. And this is what's happening in this retreat. È ciò che sta accadendo in questo ritiro. Okay. So after a few days of intensive practice, intuitive knowledge is unfolding, and we shall go into this in a few moments. E quindi dopo alcuni giorni di pratica intensiva, quindi si sta sviluppando questo tipo di conoscenza più intuitiva. E adesso ne parleremo un pochino più nel dettaglio. Okay. Now, just briefly, other terms for knowledge are as non-delusion. Quindi altre interpretazioni della parola conoscenza sono la non illusione, non bewilderment, non stupore, and even as right view, o retta visione, retto modo di vedere, understanding, comprendere, capire, and so investigation of states would be another term. L'indagine sugli stati, l'investigazione degli stati potrebbe essere un altro. In brief, we can say that insight or knowledge is knowing things as they truly are. O un altro modo per esprimerlo è dire che l'insight o la conoscenza è il comprendere le cose così come realmente sono. And so the characteristic of this intuitive insight or knowledge is penetrating objects according to their true nature. E la caratteristica di questa conoscenza intuitiva è il penetrare l'oggetto in base alla sua vera natura. Now, when this happens, and wisdom is the mental state or mental factor of wisdom becomes predominant in the stream of consciousness, and then it, so to speak, lights up the mind. It functions as or it illuminates the mind. Allora, quando questo accade e sorge questo stato mentale, it illuminates the objective field. Okay. E quindi quando sorge questo stato mentale della saggezza, allora ciò che avviene è che in un certo senso illumina il campo oggettivo della mente. Yeah, right. And thus it is dispelling the darkness of ignorance. Quindi fa andar via il buio, l'oscurità dell'ignoranza, fa svanire, allontana. So, when we enter at night, when we enter a room that is totally dark, then, and we walk around this room, we might bump into the furniture that is placed in the room. We might bump into a chair, we might hit the wall, etc. But as soon as we maybe switch on a strong flashlight, light will be there, and this light will then dispel the darkness, and then we see clearly what is in the room. Allora, immaginiamo di entrare in una stanza buia, allora andremo a sbattere contro i muri, contro i mobili, però se abbiamo una pila e la accendiamo, allora questa luce allontanerà l'oscurità e noi vedremo le cose chiaramente, vedremo quello che c'è. Now, when we go through life without developing intuitive knowledge or insight, then we might get many things or we might understand many things in a wrong way. So we might see what is in essence impermanent as permanent. We may see what is in essence unsatisfactory as satisfactory, and we may see what is lacking a self as possessing a self. Quando noi attraversiamo la vita senza questa sorta di questa conoscenza intuitiva, allora noi potremmo commettere degli errori, scambiare delle cose per altre cose. Per esempio, potremmo vedere come permanenti delle cose impermanenti, come cose non sofferenti, come cose che invece sono sofferenti o procurano sofferenza, e delle cose come contenenti un sé, mentre invece sono cose che sono prive di un sé. And so we may think life is there only to be enjoyed, let's get a maximum enjoyment out of it. O potremmo pensare che la vita è fatta per essere goduta e quindi divertiamoci al massimo in questa vita. And going through life in this way, we might, deluded way, we might end up with plenty of difficulties. Quindi vivendo una vita in questo modo così illusorio potrà portarci a incontrare molte difficoltà. And so when we undertake intensive Satipatthana meditation, then as a result of this arises intuitive wisdom, and this intuitive wisdom then gradually, step by step, takes the place of wrong views, wrong understandings, etc. And as a result of this, we'll be more in tune with reality, and certainly we will suffer less, there'll be less difficulties. Quindi intraprendendo questa strada dell'addestramento mentale, allora sorgerà questa saggezza intuitiva e di conseguenza noi vedremo le cose in una maniera più reale, e questo ci porterà a una minor sofferenza. Però credo di aver saltato qualcosa. Prenderà il posto. Prenderà il posto invece delle cose. Ecco, e questa saggezza intuitiva prenderà il posto delle cose che precedentemente avevamo visto in maniera errata. And so when we go through life as a non-meditator, just an ordinary being, then we may think we are in control of things. We may think we're all this important, and we may think we have much understanding about the life, but it is only when we meditate and meditate deeply that we realize how deluded we are. Allora, quando noi viviamo e non siamo dei meditatori, diciamo, nella vita ordinaria, noi possiamo pensare di essere in controllo della situazione, della nostra vita, di sapere come vanno le cose, abbiamo questo senso di importanza. Ma quando cominciamo a meditare seriamente, vediamo, ci rendiamo conto di quanto siamo illusi. And especially when one's practice gets quite deep and one gains a deep insight into the nature of the mind, when one sees how the same kind of destructive patterns, mental patterns, are happening over and over and over again, then one realizes how deluded one has been so far. E con l'approfondirsi della pratica e la conoscenza della natura della mente sempre più approfondita, uno si rende conto degli atteggiamenti distruttivi, dei comportamenti distruttivi della mente, e questo fa sì che uno si renda conto di quanto sia vissuto in maniera illusa, insomma. Quanto si è illusi. Now, when we practice, then the following happens. We keep the precepts, we restrain the senses, and gradually we come in contact with the rise and fall. Allora, cosa succede quando uno intraprende la meditazione? Uno prende i precetti, controlla i sensi e gradualmente entra in contatto con l'alzarsi e l'abbassarsi dell'addome. And then we'll gradually learn to discern between the rising movement and the falling movement. We may even see a gap, a gap or a pause between the rising and the falling, and pause between the falling and the next rising. Allora, cominciamo a distinguere l'alzarsi dall'abbassarsi. Potremmo accorgerci che c'è una pausa tra l'alzarsi e l'abbassarsi, poi forse dall'abbassarsi tra l'abbassarsi e l'alzarsi. And on top of this, gradually we learn to discern the specific sensations in the rising movement and in the falling movement, let's say such as the expansion during the rising and the contraction during the falling. E successivamente potremmo accorgersi delle specifiche qualità di questo oggetto, per esempio una espansione nell'alzarsi dell'addome e una contrazione nell'abbassarsi. And then we might also observe and discern some other predominant physical objects. E potremmo poi riconoscere e distinguere altri particolari oggetti predominanti. Now, after already after a short while, a meditator will come across certain mental phenomena such as wandering mind and the sloth and torpor. Dopo un po' un meditante potrebbe incontrare anche dei fenomeni mentali come per esempio la mente che divaga o la pigrizia e il torpore. And it doesn't stop there. A meditator may then even come to experience the whole range of the five hindrances. E non finisce lì, il meditante potrebbe fare esperienza dell'intera gamma dei cinque ostacoli. Dealing with these hindrances, at first it's somewhat difficult, but gradually one manages to overcome them one by one. Affrontare questi impedimenti o questi ostacoli inizialmente sembra una cosa difficile, ma poi uno riesce a affrontarli uno per uno. And in dealing with the hindrances, one gains familiarity with certain mental phenomena. E nel affrontare questi cinque ostacoli, uno acquisisce familiarità con determinati fenomeni mentali. Now, once a meditator has gone beyond the five hindrances, and this happens usually happens when a certain amount of concentration has arisen, then some wholesome mental states will arise, such as calmness, a sense of peace, a sense of clarity of mind. Some meditators even report some joy and or some happiness. Quando sono superati i cinque ostacoli si sviluppa una maggiore concentrazione e si possono allora avere delle esperienze più positive, più salutari, come per esempio una calma nella mente, uno stato di pace, una chiarezza mentale. Alcuni possono anche avere esperienze di grande gioia o felicità. And even some purity of mind may be there. E potrebbe esserci anche una sorta di, cioè un certo grado di purezza della mente. Once a meditator's practice has developed up to this point, then the arising of the first intuitive insight knowledge is very near. Quando la pratica di un meditante arriva a questo livello, allora è molto vicina vicino il sorgere della prima conoscenza intuitiva. And so then usually at this point a meditator will intuitively understand that all there is in terms of formations is just physical formations and mental formations, and this is all these physical and mental formations make up what we usually refer to as a being. Allora, un meditante vede a questo punto molto chiaramente, intuitivamente, che esistono solo fenomeni fisici e fenomeni mentali, e l'insieme di questi due aspetti, fisico e mentale, costituiscono ciò che noi di solito chiamiamo un essere. And on top of what these meditators will disidentify from the predominant objects to some extent. So the rising and falling, for instance, will no longer be referred to as my rising and falling, but certainly will be seen as rather just a process. E il meditante comincia a non identificarsi più tanto con i fenomeni e per esempio l'alzarsi e l'abbassarsi dell'addome non è più il mio alzarsi e l'abbassarsi dell'addome, ma viene visto semplicemente come un processo. And so, with this certain first insight knowledge, realizing that there, in the end, there are just these material and mental phenomena that are occurring, and in the end, there is no self. Well, with this, one's wrong view of a permanent self gets rectified to some extent. Allora, con questa prima conoscenza dell'insight, cioè che ci sono solo fenomeni materiali e mentali, uno si rende conto che, che è solo un processo, che non esiste una persona, un sé, e quindi questa errata percezione di un sé permanente e solito viene in qualche modo rettificata fino a un certo punto. And so, this is the first important step on a long path of purifications of the mind. E questo è il primo passo di un lungo sentiero di purificazione, di purificazioni della mente. And it all starts in a very simple way. E inizia tutto in un modo molto semplice. And gradually, things get more and more complex. E man mano che si va avanti, gradualmente le cose diventano un pochino più complesse. Now, the Visuddhimagga is helpful in its explanations, and it says, if a meditator does not yet see the mental formations, can not yet discern them clearly, then he or she is advised to keep on observing the physical formations, and then in doing so the mindfulness will gradually improve, and then eventually the mental objects will also be clearly discernible. Visuddhimagga in questo dà un utile consiglio, un'istruzione, e dicendo che se il meditante non vede chiaramente i fenomeni mentali, allora dovrebbe continuare a osservare i fenomeni fisici, e man mano che li osserva si svilupperà la consapevolezza e come conseguenza riuscirà poi a distinguere anche i fenomeni mentali. Another point or another aspect that certainly comes along with this certain first insight is that meditators realize an interdependence among physical phenomena or let's say materiality and mentality. Un'altra cosa che succede in questo primo insight è che il meditante riconosce che c'è una interdipendenza tra la materialità e la mentalità, nel senso dei fenomeni mentali. And so, the physical phenomena cannot exist without the mental phenomena, and the mental phenomena cannot exist without the physical phenomena. In altri termini, i fenomeni fisici non possono esistere senza i fenomeni mentali, e i fenomeni mentali non possono esistere senza i fenomeni fisici. And so, usually, also what happens is that meditators gain a first understanding into the difference, or learn to discern between wholesome and unwholesome mental states. Di solito succede che i meditanti cominciano a riconoscere la differenza tra stati mentali non salutari e salutari. And so, this then is important for later on. E questo diventa molto utile per le fasi successive. And on top of this, meditators also come across to some extent or come across some intentions. E in aggiunta i meditanti incontrano o fanno delle prime esperienze con l'intenzione. And they realize that any activity, be it physical or verbal, is certainly preceded by an intention or a certain impulse, and that we don't really have to be a slave to our impulses. We can just stop for a moment and reflect whether it's worth acting on this impulse or not. E si rende conto che qualsiasi azione fisica o verbale è preceduta da un'intenzione o un impulso, e che non è necessario essere schiavi di questi impulsi. Noi possiamo anche fermarci un attimo e decidere se seguire questa spinta oppure no. Ok, let me conclude today's Dhamma talk by wishing all of you out of your meditation or satipatthana practice, may you gain much wisdom, starting with the first insight knowledge, and eventually may this wisdom deepen more and more, and may it lead to a transformation of your life, and eventually may it lead you to the attainment of the peaceful state of Nibbana. Allora, che voi possiate sviluppare questa saggezza cominciando dal primo insight, e che attraverso questa saggezza che voi possiate, possa esserci una vera trasformazione nella vostra vita, e che questa trasformazione successivamente possa portarvi al raggiungere il Nibbana. You have any questions, comments? Domande, commenti. Yes, Marco. Io volevo sapere se io conosco molte amici miei, ad esempio, che non praticano, e gli ostacoli che lei ha elencato esistono per me, esistono anche per gli altri, però non è per tutti uguali. A differenza sia che io merito che loro non merito, cioè non è per tutti uguale. Volevo sapere se c'è anche differenze, non so, ad esempio karmiche rispetto alle persone, non so, è una domanda un po'. What's the difference between a meditator and a non-meditator? Because if he has a lot of friends that don't meditate, and they have the same hindrances, the same difficulties, for example. So is there something at the karmic level that in a way leads a person to go towards mental development and not another person? Yes, it could be. Potrebbe essere. Sì. Che c'è una motivazione karmica che mi spinge. So, indeed, some people get certain kind of pushed into the Dhamma owing to certain circumstances, and so for others it's not necessarily happening like this. Ci sono alcune persone che sono in qualche modo spinte dentro il Dhamma per determinate condizioni, diciamo necessità, per altre persone invece non è così. And for instance, if one has, even before encountering the Dhamma, if one has done a fair amount of wholesome deeds, helped others, supported others, and led a relatively pure life, then it's likely that one might get in contact with the Dhamma. Quindi anche precedentemente all'incontro con il Dhamma, diciamo, se una persona ha fatto una vita in cui ha aiutato le altre persone, ha praticato, non so, la generosità, eccetera, quindi ha condotto una vita abbastanza pura, diciamo così, allora è più facile che questa persona, più in là nella vita, col tempo, insomma, arriverà a incontrare il Dhamma. Quindi anche lo sviluppo, cioè la facilità del raggiungimento del nirvana o dei primi stadi, è anche influenzato dalla cioè dal precedenti esperienze di vita, diciamo. So then also in the development of your practice or in mind development, in some way you're also affected by your previous lives, for example, or your karmic background, let's say. Yes, it might be. Sì, potrebbe essere così. Sì, a part of the unfolding of wisdom is that this can happen in different ways. In the Buddha describes four modes of progress. Quindi questo sviluppo della saggezza può accadere in vari modi e il Buddha descrive quattro modalità di progresso. And modi in cui si progredisce. One is slow progress and difficult practice. Allora, il primo è un lento progresso e una pratica difficile. The second one is slow progress but easy practice. Il secondo è un lento progredire, ma una pratica facile. And then the next one is quick progress but difficult practice. Il terzo quindi è un progresso veloce, ma una pratica difficile. And the last one is quick practice and easy practice. E l'ultimo invece è una pratica sia veloce che facile. And obviously we all want to be in the last category. But unfortunately it's not always happening like this. Non sempre succede così. And, so depending on how much practice the meditator has done already, let's say before his or her intensive Satipatthana practice in this life or even in previous lives, will our progress be quick or slow? E quindi in base a come uno ha praticato prima di intraprendere una pratica intensiva di Vipassana in questa vita o nelle vite precedenti, quindi in base a questo la propria pratica sarà più veloce o più lenta. And so, the factor of suffering also plays a great role. If maybe one has experienced already lots and lots of suffering in one's present existence, this may also be a very strong motivating force in one's meditation. C'è anche il fattore della sofferenza che è molto importante. Se uno ha sofferto molto in questa vita, allora questa può essere una forte spinta nella propria pratica. No, this is not for all, for some. Questo non vale per tutti, ma per alcuni. No. Ok. Anything else? Qualcosa? Yes. Can you mention a little bit the relationship in between Samatha and Vipassana in seen from this viewpoint? From which viewpoint? The one you are explaining now. I mean, you're talking about intuitive knowledge, insight, etc. What's the role of relaxation, search for bliss? Another kind of, let's say, knowing, but not in terms of wisdom, but in terms of something else, like in the samatha. Oh, in the samatha. Yes, well, Massimo, let's certainly do like this. This is a big topic, and I'll try to, I could give a full talk on this sometime in the future. Although, wait a minute, you're leaving on Sunday, no? I'll listen to the recording. Let me just translate this for the Italian. So. Allora, Massimo chiedeva... non so se vuoi tradurlo tu, Massimo, in italiano? No, sì, sì. Il rapporto tra questa via, che possiamo dire, della saggezza... orientata alla, alla consapevolezza profonda, all'insight, e dall'altra parte una via che è quella tipica della samatha, che invece tende al rilassamento, alla ricerca di stati sublimi, a prescindere dalla saggezza. Il Venerabile dice che questo richiederebbe un intero discorso di Dhamma, questo argomento, che lui probabilmente affronterà in futuro. There's not many days left, so I'll have to do it either tomorrow or day after tomorrow. Se non rimangono molti giorni, perché Massimo va via domenica, allora posso solo farlo o domani sera o day after tomorrow, Oh, wait a minute, Saturday is going to be out, so then only tomorrow. Rimane solo domani, perché sabato sera lui non farà beate. Ok, I'll try to fit it in tomorrow. Cercherà di inserirlo nel suo discorso di domani. Okay, maybe this much for our discussion, and let's do the metta chanting.